La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, ora di cinema di Radio 24, weekend di punta per quanto riguarda la stagione cinematografica, non tanto quella nelle sale che comincia ahimè a languire, quanto quella che riguarda il cuore di tutti noi cinefili, perché è il weekend centrale del Festival di Cannes, del festival più importante, più grande, più prestigioso del mondo ormai. Da molti anni, anche qui ai noi, diciamolo, perché una volta forse con Venezia c'era più competizione. Invece oggi è Cannes, la Croisette, la vetrina alla quale tutti vogliono aspirare e come vedremo, come sentiremo durante la trasmissione con il collegamento con il nostro Boris Sollazzo che abbiamo spedito lì in Costa Azzurra, insomma c'è molto da discutere, ci sono molte cose belle che si sono già viste e che si vedranno durante questi 11-12 giorni di festival. Ma ci sono anche le uscite in sala, ci sono anche le novità per chi a Cannes non è, ma invece qui a disposizione con i cinema italiani, e allora andiamo subito a riepilogare i temi della trasmissione nei titoli di testa. Sulla Croisette impazza il Festival di Cannes. Ne parliamo alla Rosa Purpurea. I film e le star più attese, dalla corsa per la Palma d'Oro alle sezioni collaterali, per l'appuntamento più prestigioso della stagione cinematografica mondiale. E da Cannes sbarca nelle sale italiane Il grande Gatsby di Baz Luhrmann. Rivisitazione in chiave contemporanea del capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, che ha avuto già molte versioni per il grande schermo. Il film vive sull'interpretazione di Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan, scintillante come Moulin Rouge, ma incompiuto come Australia. E dal Festival di Cannes, ma del 2012, arriva anche Post Tenebras Lux, il film del messicano Carlos Reigadas, che ha vinto il premio per la miglior regia sulla Croisette lo scorso anno. Un film dall'estetica estrema, che racconta la storia di una coppia di Città del Messico alla difficile ricerca di un rapporto con la campagna e la sua gente. In fuga dall'Estonia per cercare una nuova vita a Parigi. È la protagonista di A Lady in Paris, nuova prova d'attrice della grande Jean Moreau. Il ménage fra badante e anziana si trasforma in un rapporto che cambierà le esistenze delle due donne, restando alla larga però da un nuovo quasi amici. Allora cominciamo subito, prima di collegarci con Cannes fra un attimo, cominciamo subito a parlare di uno dei film, pochi per la verità, che arrivano nelle sale in questo weekend, con una distribuzione diciamo nazionale, sono praticamente quattro, e uno di questi è Il grande Gatsby, e ovviamente di questo parleremo fra poco collegandoci appunto con Boris Sollazzo, parlandone visto che è stato appunto il film d'apertura del Festival di Cannes. Sarà il film a chiappa incassi di questo weekend, non è difficile prevederlo, ma vogliamo sottolineare e parlare di un altro film adesso. Si intitola A Lady in Paris, è un titolo che tradisce un po', anzi tradisce molto il titolo originale, che era Un Étudiant in Paris, cioè una estone a Parigi, titolo che il cinema francese può permettersi, forse quello italiano ha pensato di no. E allora A Lady in Paris. Chi è questa Lady in Paris? È una donna che arriva dall'Estonia, una donna non più giovanissima, una donna che ha superato ormai da tempo i 50, in fuga da un marito ubriacone dal quale divorzia appunto in questo paese del Baltico, e arriva a Parigi con la speranza, anzi richiamata dall'idea di poter fare la badante a una vecchia signora, anch'ella di origini estoni ma trapiantata a Parigi da moltissimo tempo, e quindi questo aiuto, diciamo anche linguistico, potrebbe favorirla nell'inserimento in una realtà che lei sogna. La Ville Lumière del resto esercita sempre grande fascino. E arrivata a Parigi, ovviamente, numero uno, si renderà conto che le cose non sono mai così facili. Numero due, toccherà con mano quello che le era stato detto: attenzione, per questa donna è una signora tosta, è una signora anche molto difficile, chissà perché le badanti ogni tanto o i badanti ogni tanto scappano. E insomma si renderà conto delle asperità del carattere di questa donna. E andiamo allora ad ascoltare dalle clip del film uno dei primi incontri fra la badante e la signora. Cos'è che ti ha detto? Ha detto che lei è sola, che a parte lui non ha nessuno. Quanto ti paga? I soldi per me hanno un'importanza relativa. Allora perché sei venuta a Parigi? Mia madre è morta e mi sentivo male all'idea di restare da sola in quella casa. E non c'è nessun uomo nella tua vita? Nessuno, ho divorziato 12 anni fa. E hai avuto l'idea idiota di occuparti di un rudere come me. Comincia col raccogliere il vetro che ho spaccato. Dopodiché potresti anche cambiarmi le lenzuola, ti esalta? E avete sentito quanta ironia tagliente ci sia nelle parole della signora? Ebbene, un rapporto che sembra difficile, sembra sempre sul punto di potersi rompere, però qualcosa succede, succede reciprocamente, succede che le due donne riescono a sviluppare un equilibrio, un'amicizia che non esplode mai, ma che divora in maniera carsica entrambe le protagoniste da dentro, fino a riaccenderle alla vita. Da una parte la badante, che torna a guardarsi come una donna, torna a cercare di piacere; dall'altra la vecchia signora, che torna a mettere la testa fuori di casa, cosa che sembrava aver lasciato alle spalle, quasi a lasciare attendere l'inevitabile destino dentro le mura domestiche. Invece torna in qualche modo alla vita e soprattutto torna al bar gestito dal suo giovane ex amante, che ha ormai per lei un amore praticamente filiale. Maurice. Frida, ti lascio il tuo tavolo. Sei galante. E tu sei una visione. No, ma dove vai? Siediti, carissimo. Con gioia. Grazie. Non c'è di che, madame. Prego, capo. Stefan, una sorpresa sgradita? Al contrario. Che vuoi bere? Che razza di domande, tesoro? Una vodka con un pochino di ghiaccio. Te la preparo personalmente. Molto gentile. Frida, sembri una ragazzina. E tu un giovanotto. Hai fatto un patto col diavolo? Che ti posso dire? Sarà questo posto che mantiene giovani? Oh, Maurice, entrambi sappiamo che è pure illusione. Ormai abbiamo un piede nella fossa, caro mio. E Lady in Paris, diretto da Ilmar Ragh, che pesca un po' anche nell'autobiografia, se vogliamo, in questo racconto, nell'autobiografia familiare, con una grande Jean Moreau, protagonista nei panni della vecchia signora. È bellissimo il fatto che il cinema francese riesca ancora a dare ruoli da protagonista a un'attrice di questa generazione, ma anche di questa immensa bravura. Le Magie, nei panni della badante, e poi Patrick Pinot e Corentin Lobé a chiudere il cast. Un film nel quale si entra piano piano, esattamente come succede nel rapporto fra le due donne, nel quale all'inizio c'è un po' di difficoltà più che altro a stabilire un centro della storia, poi piano piano capiamo che è proprio questo divorarsi, questo avvicinarsi e riuscire a scavare dentro l'altra un senso di amicizia e un senso di riapertura alla vita, il vero perno centrale di un film, che sotto il profilo registico è assolutamente lineare, forse in qualche momento anche un po' piatto, non regala molto, ma che sotto il profilo invece delle interpretazioni ci regala una grande prova di Jean Moreau. Non ce n'era bisogno, ma fa sempre molto piacere, e ci svela questo viso freddo, austero, che però fa venire fuori sentimenti interni ribollenti nel carattere appunto della badante. La rosa purpurea. New York, 1922. Il ritmo della città era cambiato radicalmente. I palazzi erano più alti, le feste più sfarzose, la morale più libera e i liquori più scadenti. L'irrequietezza rasentava l'isteria. I've seen the world, done it all, had my cake now. Le note della bellissima colonna sonora del grande Gatsby di Baz Luhrmann ci fanno entrare nel clima di questo che è il film della settimana, e sicuramente qualcosa di più, perché questo riadattamento del quarto, mi pare, della storia del cinema al grande romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Ce ne fu uno nell'epoca del muto, poi ce ne fu uno alla fine degli anni 40 con Alan Ladd in bianco e nero, poi ce ne fu uno negli anni 70 con Robert Redford, forse il più celebre, a colori, e adesso arriva questo in 3D, quindi c'è tutta anche l'escalation tecnologica del cinema nella storia di questo capolavoro sempre verde, evidentemente, per essere raccontato, per essere riraccontato, rinarrato al pubblico del proprio tempo, ed è quello che cerca di fare Baz Luhrmann con questa versione. Ora vedremo se completamente, parzialmente riuscita, quali sono i pregi, quali sono i difetti. La storia per chi non dovesse conoscerla, è quella ambientata all'inizio degli anni 20 di un giovane che si trasferisce a Long Island, poco distante da New York, in una bellissima villetta proprio sull'acqua, che confina con la villa di un misterioso miliardario di nome Gatsby, Jay Gatsby, miliardario per oggi, milionario per l'epoca, che organizza feste davvero memorabili quasi tutte le sere. La sua casa si illumina di quel mondo un po' Charleston e un po' Belle Époque, di una New York che, come abbiamo sentito nella clip che ci ha introdotto, perdeva i suoi freni inibitori e si lanciava da una parte nella folle corsa al mercato che sarebbe sfociata nel 29 nel crack di Wall Street, e dall'altra in una analoga folle corsa nei costumi, nell'abbassamento dei costumi morali tra persone. Quindi, insomma, una New York nella quale alcol, sesso, anche le prime droghe facevano rima con un'espansione e un'esplosione della società. E quindi questo milionario misterioso organizzava feste tutte le sere, un uomo, Gatsby, del quale si parlava molto ma del quale si sapeva poco, e questo sarà uno dei filoni del romanzo di Scott Fitzgerald. Nick Haraway arriva per andare a trovare anche la propria procugina Daisy, che abita esattamente dall'altra parte dello specchio d'acqua che affaccia sulla villa. Viene a sapere Nick che Daisy ha avuto in passato dei trascorsi proprio col suo illustre e piuttosto evidente, benché misterioso, vicino di casa, e aderisce all'idea di creare fra i due un nuovo incontro, di dare la possibilità di farli rivedere, e sarà chiaramente quel rincontro il momento in cui l'amore fra i due si riaccenderà, dando vita a tutta l'incredibile serie di situazioni che ne vengono fuori. Ovviamente nel frattempo Daisy sposata con figli, e quindi, come potete immaginare, anche per la licenziosa società dell'epoca non era poco. Mi fermo qui, poi il racconto chiaramente è consegnato alla storia, è celebre, e anche Baz Luhrmann, come hanno fatto in passato gli altri registi. Ricordo per esempio che il film degli anni 70 con Robert Redford aveva la sceneggiatura firmata da Francis Ford Coppola, segue in maniera abbastanza fedele l'evolversi del romanzo, facendo però qui una forzatura. Il ruolo di Nick Haraway, il narratore del libro, è un ruolo interpretato da un vero e proprio personaggio, Tobey Maguire in questo caso, che vive in carne e ossa, che nel film vediamo come appunto uno scrittore, sarebbe l'alter ego di Scott Fitzgerald, che sta scrivendo un libro di memorie in un futuro nel quale lui è ormai da ospedale psichiatrico. Ebbene, sta scrivendo un libro di memorie che racconta la storia del grande Gatsby. È una, appunto, una forzatura voluta dall'eccentrico regista australiano, che racconta come due anime, cerca di raccontare, come ha fatto già un po' in Moulin Rouge, come due anime molto distanti, quasi impossibilitate a toccarsi, entrino in contatto e creino scintille. È un piacere incontrarla di nuovo. Anche per me incontrarla di nuovo è un piacere. Quando ho avuto il piacere di fare la conoscenza del signor Gatsby, ho scoperto un uomo dai modi raffinati. Molto interessante. Va tutto bene? Oh, sì! Sempre così elegante. L'uomo dagli abiti eleganti. Lei deve dirgli che non l'ha mai amato. Ho appena sentito una cosa scioccante. Ora tutto ha un senso. Vieni, vecchio mio. Ci serve. Vorrei che potessimo fuggire. Signor Gatsby, scusi. Un'ora. Vite imprigionate nei propri destini, si potrebbe dire. Dicevamo, tante trasposizioni cinematografiche, e ancora una volta, però, a mio avviso, non quella definitiva. Anche qui Baz Luhrmann fa quello che sa fare meglio, cioè punta molto sull'aspetto visivo, è perfettamente a suo agio nelle situazioni delle feste, nelle situazioni di massa, quando può far muovere la macchina del cinema, la scena dell'ingresso di Nick nel salone dove reincontra Daisy con questi veli straordinari raccontati da Fitzgerald che si muovono dalle finestre, dove c'è possibilità di essere rutilanti, scintillanti, sparkling, ecco che Baz Luhrmann è perfettamente a suo agio. Dove c'è invece da tenere la macchina su un maggiore intimismo, ecco che Baz Luhrmann si attiene un po' di più alla parola scritta e fa un po' di più il compitino, e questo forse è il limite. Un film molto visivo ma poco emozionale, che sicuramente non riesce a tirar fuori quella sottotraccia di grande dolore inespresso che nel romanzo c'è, e che qui invece viene espresso, forse anche troppo, nella seconda parte del film, verso il finale, diventando alla fine un plot quasi da melodramma, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Quindi una operazione interessante ma non perfettamente riuscita, un Leonardo DiCaprio molto bravo, molto a suo agio, a mio modo di vedere ancora meglio di come si attagli la sua fisicità al ruolo, la sua faccia senza rughe, la sua espressione di eterno giovane. Forse il ruolo stava più addosso ad altri attori che lo hanno interpretato, ma lui lo interpreta molto bene, chiariamoci, non è un problema ovviamente di DiCaprio. Casomai potremmo parlare di questo doppiaggio che gli attribuisce una voce da eterno ventenne che vorremmo vedere, visto che ne ha più di 40, vorremmo vedere un po' cambiare. Toby Maguire, abbiamo detto, è lì dietro le quinte, guarda, il voyeur, è quello che guarda le cose, come quel cartellone pubblicitario con due enormi occhiali sulla strada di una New York ancora in costruzione. Cary Mulligan è materiale bollente. Cary Mulligan è una delle bionde più calde e più sofferte che ci siano oggi sulla piazza cinematografica, e la sua Daisy a me è piaciuta veramente tantissimo. Detto appunto della regia di Baz Luhrmann, quel che rimane in questo film è sicuramente una messa in scena contemporanea, e qui Baz Luhrmann lavora, come fece già in Moulin Rouge, adattando il clima dell'epoca alla musica di oggi, e così al jazz che furoreggiava nelle feste di quegli anni. Si sostituisce l'R&B, si sostituisce la musica che abbiamo sentito anche in sottofondo, una colonna sonora modernissima firmata in parte anche da Jay-Z, ma da rapper anche contemporanei molto importanti, che ci avvicina immediatamente a quel mondo, e lo fa anche con un montaggio sonoro piuttosto azzardato, scene di feste dove c'è un'orchestra jazz che suona, ma dove noi sentiamo la musica di oggi. Questo è sicuramente quello che a Baz Luhrmann, come dicevo prima, riesce meglio. Adesso noi giochiamo insieme perché dobbiamo un attimo fare una pausa per provare a farvi vincere i film, come facciamo sempre, ma fra poco ascoltiamo Baz Luhrmann e Leonardo DiCaprio. Quindi sentiamo la prima traccia del film misterioso di oggi. È arrivato qui senza niente. Con una valigia. Ha preso una fabbrica che era in bancarotta e l'ha trasformata in un importante opificio. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Di che film si tratta? Stiamo giocando con il Blu-ray di questo film. Una copia per chi indovina per primo il sabato e la domenica. Più tardi, altre due possibilità. Ancora le note della colonna sonora del grande Gatsby, il film che ci accompagna in questo scivolo verso il Festival di Cannes, il film che ha aperto il Festival di Cannes e che adesso è nelle sale cinematografiche italiane. Abbiamo parlato di questo spettacolo, di questa operazione. Sentiamo ora le voci dei protagonisti, cominciando con Baz Luhrmann. Baz Luhrmann che in conferenza stampa a Cannes ha raccontato un aspetto molto importante di quanto Scott Fitzgerald non fosse assolutamente stato compreso all'epoca dell'uscita del suo libro. And he was horrendously criticized when the book came out. Fitzgerald fu tremendamente criticato quando uscì il libro. La critica più importante e prestigiosa dell'epoca lo definì un clown. Scrissero che i suoi personaggi erano superficiali, delle marionette. Quando morì, e ho sempre pensato che fosse incredibile, ma vero, tutti si dimenticarono di lui. Negli ultimi anni di vita fu costretto a comprare egli stesso copie del suo libro per avere qualche ricavo. E insomma, una sorte piuttosto bizzarra questa. Invece il suo libro continua a essere un classico letto e studiato in tutto il mondo e ripreso dal cinema ogni 20 anni praticamente per essere raccontato nuovamente, proprio grazie a quei valori universali. Baz Luhrmann alla regia, Leonardo DiCaprio sul set, due numeri uno, se vogliamo, in qualche modo, nelle rispettive professioni. Com'è stato il rapporto fra i due? Lo ha raccontato Leonardo DiCaprio. What is so fantastic about Baz is many things. Baz è straordinario per molti aspetti. Uno di questi è che riesce a ispirarti ogni giorno, non solo a dare il meglio, ma a sognare e a farlo in grande. Non puoi entrare in una stanza con quest'uomo e non sentirti ispirato, nostalgico, non sentirti come se fossi parte di qualcosa di speciale. Ci riesce con tutti quelli con cui lavora. È contagioso. E inoltre non ha paura di affrontare storie di grandi classici che sono radicate nella nostra cultura e quindi molto rischiose da rappresentare. E allora, queste le parole di Leonardo DiCaprio. Ricordiamo chiaramente l'uscita del film Il Grande Gatsby in tantissime sale, assolutamente monopolizzante in questo primo weekend di presenza nei cinema italiani. Noi fra poco ci colleghiamo con Boris Sollazzo per parlare di tutto il resto del Festival di Cannes e per parlare di un'altra uscita italiana in questo weekend, Post Tenebras Lux. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, terza parte del programma, e dopo averlo tanto annunciato, eccoci finalmente in collegamento con Boris Sollazzo dalla Croisette. Abbiamo annunciato il Festival di Cannes, siamo entrati dentro mani e piedi nel primo dei film che arriva in sala in Italia, il più atteso forse almeno per questa settimana, Il Grande Gatsby, dopo aver aperto appunto la kermesse di Cannes. E adesso cerchiamo di fare un po' un punto su quello che è stato in questi primissimi giorni, ma soprattutto che può essere nel suo sviluppo, il Festival di Cannes, con Boris Sollazzo. Ciao Boris. Salve Franco, ti parliamo proprio da un passo dalla Croisette, proprio un passo dal tappeto rosso, dal cosiddetto Monté de Marche. Eccoci qua. Allora, il punto giusto per osservare il mondo del cinema, questo. Dunque, dicevamo di DiCaprio, ormai è passata lì, Cannes macina personaggi e film tutti i giorni, più volte al giorno, è una specie di grande tritacarne. Quel che c'è di sicuro che è stata un'apertura sotto una grande pioggia, per chi ci lavora sicuramente un dato che appesantisce un po' il percorso, a alleggerirlo dovrebbero esserci sicuramente i film. Allora ti chiedo, Boris, di entrare un attimo in quelle che sono le tre, se vogliamo, sezioni principali, due proprio organiche al festival, l'altra invece parallela ma sempre molto interessante, cioè il concorso e la sezione Un Certain Regard, che è comunque da parecchi anni ormai competitiva, e fuori invece la mitica Kenzen del Realisateur, cioè la sezione gestita direttamente dagli autori di cinema, che è quella nella quale molto spesso si fanno le scoperte più interessanti. Cominciamo dal concorso. Boris, se dovessimo tirar fuori un paio di film del concorso, ricordiamo anche quello del nostro Paolo Sorrentino, di cui parleremo però diffusamente settimana prossima, La Grande Bellezza arriverà nei cinema italiani, dicevo, un paio di titoli da non perdere nel concorso, tra quelli più attesi, quelli che si fanno vedere di più, quali sono? Guarda, fare una scelta di merito è fare un torto a un programma che è davvero fare. Io direi che mi baso proprio sulla curiosità che mi suscitano due grandi maestri, anzi tre grandi maestri della tutta, che sono Steven Soderbergh e i fratelli Coen. Questo perché? Perché Steven Soderbergh si lancia senza paracadute in una storia difficilissima sul pianista Liberace e sul suo compagno, in questo film Behind the Candelabra, che racconta una storia decisamente ambigua già allora, e che poi non è stata più riscoperta, come si fa quando insomma si sotterra qualcosa che non si vuole raccontare, purtroppo sui temi sessuali e sull'omosessualità. Questo avviene spesso sia in Europa che negli Stati Uniti. E anche come associazione di idee è impossibile non pensare anche ai Coen, che Inside Llewyn Davis raccontano questo cantante folk che è a metà tra Bob Dylan e Buddy Guthrie, che sono di fatto i menestrelli, le voci di un'America libera, di un'America verace, di un'America forte, anche di un'America contraddittoria, che si trova a fare un passaggio di consegne negli anni 60 tra il dopoguerra e la liberazione politica, sessuale e via dicendo. Ecco, devo dire che tra i tanti grandi maestri, questi due film che sono uniti dalla musica mi interessano molto, come per esempio Fuori Concorso. Sono curiosissimo di vedere il film su Muhammad Ali, di Stephen Frears e il film su Jackie Stewart prodotto da Roman Polanski, il campione di Formula 1. Anche qui due film uniti da un argomento comune, che è lo sport, che è l'eroe sportivo. Mi sembra che quest'anno Cannes vada molto a blocchi in questo senso. Ecco, tra l'altro hai detto due cose che valgono la pena essere sottolineate. Una, Roman Polanski presente anche con la sua versione tutta francese della Venere in pelliccia. Due, la Formula 1 che sarà invece poi super protagonista con Rush durante la prossima stagione di Ron Howard. Cambiamo pagina e andiamo al Certain Regard. Per anni questa sezione è stata un po' schiacciata dal festival, sembrava la sorella povera del concorso. Sì, certo, dobbiamo tenerci anche una sorta di serbatoio per film che venivano scartati o non avevano la tu per poter entrare nel concorso principale per la Palma d'Oro. Invece non è così, e soprattutto non è così da quando è diventata competitiva e assegna a sua volta una palma. Ed ecco che troviamo una calendario, una locandina molto interessante, con tante sottolineature al femminile di registe come Sofia Coppola, come Claire Denis, come la nostra Valeria Golino, e non sono le uniche a sottolineare un certain regard, cioè un certo sguardo davvero molto interessante. Ecco, sono d'accordissimo con te, la tua analisi secondo me è perfetta. Il certain regard da frequentatore di Cannes secondo me è stata la migliore sezione degli ultimi anni, proprio dovendo fare una media. Spesso ha dato più del concorso, che spesso schiera i nomi ma non soddisfa pieno, e invece nel Certain Regard secondo me c'è la libertà da parte dei selezionatori di scegliere i migliori film, non solo i migliori autori. Di sicuro qua faccio magari, mi limito a fare i nomi, ma di sicuro qui c'è un Love Diaz, che abbiamo visto spesso anche a Venezia con i suoi film fluviali, molto forti, molto potenti, molto poetici, ma anche molto civili, che cattura l'occhio. C'è James Franco in un'altra prova da regista, dopo quella vista a Venezia, c'è Claire Denis, quindi insomma anche anagraficamente c'è una grandissima diversità. E poi in una canna onestamente un po' maschilista, come giustamente hai fatto tu, è giusto sottolineare Valeria Golino, e sono questi diciamo i miei due consigli, anche se forse sono più scontati dei precedenti, Valeria Golino e Sofia Coppola, perché sono due donne, perché raccontano due storie al femminile, due storie molto libere, molto forti, in cui si parla di amore, vita, morte, anche sesso, lo si fa con una spregiudicatezza anche morale ed estetica molto forte, e a mio parere è giusto sottolineare questo in questo Certain Regard, proprio perché se un difetto ha questo Cannes è una selezione fin troppo maschile, se non macista. E allora, ultima parentesi per una sezione autonoma che noi cinefili, come dire, coccoliamo sempre molto, la Quinzaine des réalisateurs, che chi è a Cannes costa anche spesso lunghe passeggiate per andare nel cinema dell'hotel Noga Hilton, che proietta i film di questa sezione che è quella per chi piace il cinema, che sa sperimentare, che sa cercare nuove strade, che sa scoprire nuovi talenti, anche se poi regolarmente ci trovi dentro attori importanti. Quest'anno per esempio Isabelle Huppert in Tip Top, per esempio ancora Harvey Keitel e Robin Wright in The Congress, eccetera eccetera. Allora, da chi aspettarsi il colpo d'ala quest'anno nella sezione della Quinzaine des réalisateurs? Ma la Quinzaine è un posto meraviglioso in cui, vi basti dire, è talmente democratico che non le gerarchie degli accrediti che ci sono per i giornalisti e gli addetti ai lavori in tutte le altre sezioni lì non esiste. Chi si mette in fila entra per primo, quindi insomma già questo vi fa capire quanto l'amore per il cinema va oltre anche l'esposizione mediatica di un film. Difficilissimo capire quali saranno i giovani forti, di sicuro però possiamo citare due, perché ci vanno spesso grandi maestri alla Quinzaine, basta vedere la sigla iniziale, possiamo citare due che non vediamo l'ora di vedere. Uno è Milos Forman e l'altro è Alexandre Jodorowsky, che viene con La danza della realtà e porta anche una retrospettiva. Di fatto ci sono ben quattro film di Jodorowsky e siamo curiosissimi, perché è un film di cui Jodorowsky ha parlato tantissimo su Twitter, e il pensiero che un grande maestro abbia questa dimestichezza con tutti gli apporti mediatici, compreso il social network, che insomma ne abbia fatto un veicolo del suo cinema, ci emoziona, ce lo fa sembrare molto più giovane di tanti altri. Quindi ecco, non non riesco a dare, come dire, una previsione su quali saranno le grandi scoperte, ma penso che queste saranno delle grandi conferme per cui vale la pena vedere la canzone. Allora, adesso gioco e poi parliamo dell'ultimo film di questa settimana, seconda traccia del film misterioso di oggi. Ci sono tutte le fondamenta che devono essere abbattute e scavate di nuovo, altrimenti ci sarà come minimo un cedimento alla parte meridionale della baracca. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E adesso l'ultimo film di cui vogliamo parlare, che invece arriva in sala, ma con Cannes ha a che fare, perché l'anno scorso, esattamente un anno fa, vinceva il premio per la miglior regia proprio al Festival di Cannes. È il film di Carlos Reigadas, regista messicano molto estremo e molto interessante, si intitola Post Tenebras Lux. Boris, 30 secondi per raccontarlo. Allora, non fidatevi mai dei registi premiati a Cannes per la miglior regia, perché quando dicono miglior regia lo premiano solo per quello, non per il film. In questo caso, peraltro, secondo me, Post Tenebras Lux, che vuole essere una storia familiare e fatta di flashback e flash forward, molto complessa, molto complicata visivamente e narrativamente, è solo un esercizio di stile che, tra l'altro, secondo me si compie soprattutto e solo nei primi 6-7 minuti, con un inizio davvero folgorante a livello di immagine, e poi però si perde nel solito problema di Reigadas, che appunto si innamora più della sua macchina da presa che di quello che deve e vorrebbe raccontare. E quindi mi sembra una grande occasione persa. Reigadas mi sembra quel classico campione di calcio che sa fare rovesciata, colpi di tacco, palleggi straordinari, ma si scorda sempre di segnare. E allora, con questa chiosa sul film, l'ultima segnalazione di questa settimana in sala, noi salutiamo Boris Sollazzo, gli auguriamo buon lavoro a Cannes. Ti ringrazio e alla prossima settimana. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte del programma, che significa film da vedere in casa, e noi, forti della nostra amicizia e della nostra partnership con il settimanale Film TV, su quale campeggiamo ormai stabilmente con i nostri orari della trasmissione, con gli indirizzi del nostro sito, della nostra pagina Facebook, eccetera. Insomma, eccoci insieme a Giulio San Giorgio, che ci aspetta per parlarci dei film imperdibili di questa settimana in televisione. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Che bello, sentiamo la redazione sullo sfondo, ci fa capire che lavorate sempre. Allora, cominciamo con una segnalazione su un film recente che però, come dire, suggella, un po' rappresenta un regista anomalo e molto, molto divertente, molto immaginifico, come Michel Gondry, perché va in onda su Rai 2 L'Arte del Sogno. Esattamente, mercoledì su Rai 2 alle 1.50 L'Arte del Sogno di Michel Gondry, storia d'amore impossibile tra due persone che si amano forse ma non si incontrano perché sono persi tra il sogno e la realtà. E il film, più di ogni altro, può essere visto come una premessa alla Schiuma dei giorni, adattamento del romanzo d'amore patafisico di Boris Vian, di cui il cinema di Gondry si nutre da sempre e affronta nel film che è ora nelle sale francesi per la prima volta. Ma già in questo film si vedono le caratteristiche del cinema di Gondry e del suo rapporto con il romanzo di Vian, ovvero la sgamba poesia infantile, la fantasia bric-a-brac, l'umore malinconico e appunto l'arte del sogno che si confonde con la realtà. E allora, l'appuntamento per L'Arte del Sogno, mercoledì 22 maggio all'1.50 di notte, quindi o svegli o registratore, su Rai 2. Così come il registratore servirà molto, perché la seconda segnalazione che facciamo in realtà è una segnalazione multipla, perché nella giornata di giovedì la Rai si dedica anima e core al grande maestro Francesco Rosi. Giovedì su Rai Movie, un omaggio a Francesco Rosi, massimo esponente di un cinema fortemente cinema, ma sempre in grado di inventare forme puramente cinematografiche. Salvatore Giuliano alle ore 10.15 su Rai Movie, quindi film inchiesta sul bandito di Giuliano, che è tutt'altro però che un ritratto, ed è un film cui ciò che importa sono invece gli intrecci di interessi tra politica e criminalità nel nostro paese. tardi alle 12:20 Lucky Luciano, dove Rosi associa al tipico taglio realista del suo cinema il genere gangsteristico americano per raccontare la figura del celebre capo della malavita americana negli anni 30, e infine Le mani sulla città alle 16:05, una lucida e spietata analisi dei perversi meccanismi del potere in Italia, Leone d'Oro nel 63, dove creò veramente scatto a Venezia per i troppi panni sporchi stesi al sole. E allora la carrellata, la giornata giovedì 23 maggio dalle 6:45 del mattino fino a tutto il pomeriggio con i film di Francesco Rosi. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima con le nostre segnalazioni. È arrivato il momento di giocare per l'ultima volta insieme con l'ultima traccia misteriosa di oggi. Deve mettersi in testa che Ghetta è sotto un'enorme pressione. Deve considerare qual è la sua situazione. Ha questo posto da mandare avanti. È responsabile di qualunque cosa accade qui, di tutta questa gente. Ha un sacco di cose di cui preoccuparsi. E allora, di che film si tratta? Titolo e soprattutto vostro indirizzo, cioè soprattutto titolo, ma anche il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray, in alta definizione, di questo film per chi ci ascolta il sabato e per chi ci ascolta la domenica. 7 giorni fa avevamo giocato con questa clip. Tu che fai per il tuo padrone? Non hai sentito che non sono uno schiavo? Cioè adesso sei libero? Sì, libero. Ti vesti così perché piace a te? È bellissima questa clip di Django Unchained, come molti, moltissimi dei nostri ascoltatori avevano capito, ma i più veloci sono stati Andrea Santamaria di Genova e Rosaria Moroni di Roma, e loro riceveranno il DVD di questo film, che ovviamente è uscito anche in alta definizione e in Blu-ray, del quale parliamo con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da Sony Pictures Home Entertainment è l'uscita DVD, come dicevi tu, ma soprattutto Blu-ray. In particolare quest'ultima offre una qualità di immagine da resa cinematografica. Di pregio anche le tracce audio DTS ad alta risoluzione multicanale, sia in italiano che in inglese, per chi può goderne attraverso l'impianto home theater. Gli extra sono interessanti, anche se meno effettivamente di quanto ci si poteva aspettare per un'opera del genere. C'è un approfondimento sui costumi, scenografie, le sequenze di stunt e la realizzazione. Segnalo la presenza di un'edizione Blu-ray per i collezionisti a tiratura limitata numerata di 1000 copie, che include il CD con la colonna sonora e il fumetto ispirato al film. È davvero una gran bella edizione questa, e andiamo avanti allora con quelle che sono le segnalazioni e le novità che riguardano questo periodo in home video, cominciando con un titolo che pesca nel cinema classico e si intitola La strada scarlatta. Io mi chiedo come sarà. Che cosa, Chris? Beh, essere amati da una ragazza così bella. Ah. Io non ho mai avuto niente del genere, nemmeno quando ero giovane. Già, da giovani sogniamo sempre cose impossibili, ma poi si cresce. Io da ragazzo volevo essere un artista. Sognavo sempre di diventare un grande pittore. E invece faccio il cassiere. Dipingi ancora? Sì, la domenica. È un bel passatempo. Christopher è un onesto cassiere di banca con una noiosa vita familiare, carente di affetti e una sola passione osteggiata dalla moglie, la pittura. Una sera di rientro dal lavoro salva la giovane prostituta Kitty dal brutale amante, si innamorerà della donna che farà leva sulle debolezze dell'uomo per sottrargli del denaro. Senza accorgersene la donna finirà vittima dello stesso raggiro da lei stessa architettato, ma a pagare non sarà il vero colpevole. Era il 1945 quando il maestro Fritz Lang realizzava il remake della Chien del grandissimo Jean Renoir, un intenso dramma sul destino beffardo e l'ingiustizia umana. Da Dick Alt, l'edizione solo DVD, ma comunque di eccellente resa, tra l'altro pellicola restaurata, bianco e nero, notevole, audio monofonico di accettabile qualità, italiano e inglese sono le tracce originali dell'epoca. Come extra abbiamo informazioni biografiche sul film e gli autori. Per quanto riguarda invece la seconda segnalazione, la grande questione irlandese che ha generato tanti film e anche al centro di Nel nome del padre. Sanno tutto, conoscono bene la verità, ma non possono permettersi di affrontarla. È una guerra. E voi siete le vittime innocenti. Mi dispiace che dobbiate soffrire. Oh, non si dispiaccia per noi. Deve dispiacersi per le persone che ha ucciso. Era un obiettivo militare quello, frequentato da militari. Erano innocenti quelle persone. Figli di Dio. Senta, farò tutto quello che posso per aiutarvi mentre state qui. Oh, non ci serve il suo aiuto. Negli anni 70 70 un terribile attentato a Londra organizzato da terroristi irlandesi miete numerose vittime. Il giovane irlandese Jerry Collon finisce accusato di complicità e condannato all'ergastolo con l'intera famiglia infangata e accusata di fare parte dell'esercito repubblicano irlandese. Dividerà la cella con il padre e aiutati da una combattiva avvocatessa che farà emergere una terribile verità. Jim Sheridan realizzava questo intenso dramma nel 1994 basato su fatti realmente accaduti e una delle più grandi prove attoriali di Daniel Day-Lewis, ma nel cast ricordiamo anche un'indimenticabile interpretazione del compianto Pete Postlethwaite. Da Universal finalmente l'edizione Blu-ray ad alta definizione di notevole qualità d'immagine, traccia DTS in italiano di resa superiore al DVD, eccellente, l'originale DTS ad alta risoluzione inglese, purtroppo non ci sono extra. E allora questo è Nel nome del padre, grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. Ebbene, a questo punto allora abbiamo finito la nostra corsa, vi ricordiamo l'appuntamento fra 7 giorni, ancora da Cannes ci sarà il cinema, questa volta il cinema italiano con La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che sarà un po' il film centrale della prossima settimana, argomento di cui parlare qui alla Rosa Purpurea. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia, vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, per unirvi al nostro gruppone e rimanere sempre informati per tutta la settimana sulle cose del cinema. Appuntamento fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisi.